L'economia delle piccole cose di Anna Migliorati. Quale futuro? Università sì o no? E quale? È sempre ormai il momento di pensarci, anche perché ormai per molti ragazzi è anche la primavera momento di test anticipati. Le università private lo fanno, ma anche ad esempio le cosiddette lauree programmate a livello locale, che il biglietto d'ingresso lo staccano molto prima anche dell'esame di maturità. Ben ritrovati da Anna Migliorati, anche questa è economia delle piccole cose. Non tocca a noi parlare di università in senso stretto, ma torniamo invece a parlare di quanto costa e ci costa l'università dei nostri figli, quanto serve o meno al meccanismo economico. Davvero ci investiamo? Ne abbiamo già parlato, ma torniamo a farlo con Pier Giorgio Bianchi di Talents Venture, che già ci ha detto che l'università ormai è un privilegio. Nell'Italia della scuola pubblica possibile, perché? Bentornato all'economia delle piccole cose. Buongiorno, grazie. Privilegio in che senso? Perché le rette universitarie continuano ad aumentare, le tasse medie pagate dai ragazzi in Italia sono aumentate del 10% rispetto allo scorso anno ed è un trend che sembra non fermarsi, perché negli ultimi 4 anni c'è stato sempre un aumento. Quali sono le università che costano di più o che sono aumentate di più e quelle invece che costano meno? Tra le università che costano di più sicuramente ci sono le università private, tuttavia nelle università private le tasse negli ultimi anni sono aumentate meno che nelle università pubbliche. Inoltre c'è anche un distinguo geografico da fare, perché le rette sono cresciute più nelle università al sud rispetto a quelle dal nord. Pensate che tra i primi 10 atenei in cui sono cresciute le tasse universitarie, ben 8 si trovano al sud, e il primo è quello della Basilicata, dove negli ultimi 4 anni è cresciuto del 120%. In questi costi quanto partecipa lo Stato? In realtà l'Italia, insieme a Spagna e Portogallo, è uno di quei paesi in cui è aumentata maggiormente la quota di investimenti privati in istruzione universitaria e si è ridotta la quota di investimenti pubblici. Lo Stato investe meno e richiede alle famiglie di investire di più. Quanto investono invece le famiglie e quali famiglie a questo punto? Siamo andati a vedere dai dati dell'Istat quelli che sono i consumi delle famiglie per attività non principali, quindi ad esempio... Quindi diciamo, considerando quello che una famiglia può spendere al di là di quello che serve per sopravvivere, del suo gruzzoletto sul quale può decidere cosa fare, quanto spende per l'istruzione universitaria dei figli? Si spende meno del 2% del gruzzoletto disponibile. Pensate però che, facendo un paragone, quello che è speso invece per alcol e tabacchi è più del 5%, quindi si spende 4 volte in più per alcol e tabacchi rispetto a quanto si investe rispetto alle spese universitarie. Abbiamo una propensione delle famiglie residenti al nord nell'investire di più in istruzione universitaria. Chi investe di più in istruzione universitaria sono anche le famiglie i cui membri a loro volta hanno ottenuto un titolo di laurea o post laurea. Ed inoltre, questo qui è un dato invece quasi inaspettato, non sono le famiglie più ricche a destinare una parte maggiore del proprio budget in istruzione universitaria, ma sono le famiglie del ceto medio. Quindi si cerca ancora in qualche modo di puntare sull'università per fare uno scatto nel gradino sociale, mi pare di capire. Esattamente, dai dati sembra emergere questo trending. Ecco, come si può finanziare in maniera alternativa lo studio universitario? Anche l'Italia sta cominciando a conoscere dei sistemi che per noi sono nuovi. Sicuramente fino adesso il meccanismo principale per finanziare gli studi era quello del risparmio delle famiglie. A questo si affiancano le borse di studio, che però sono limitate in Italia, solamente un ragazzo su 10 riesce ad ottenerle. Negli ultimi mesi si sono rilanciate iniziative di prestito d'onore. Ecco, il prestito d'onore, che è sostanzialmente un investimento sul proprio futuro, è un trend in crescita. Su che cifre siamo? Su che percentuali siamo? Pensate che se nel 2008 per ogni 212 euro spese per tasse universitarie si ricorreva ad 1 euro di finanziamento tramite prestito d'onore, nel 2017 invece per ogni 116 euro di tasse universitarie si ricorre ad 1 euro di prestito d'onore, quindi c'è stato un aumento che di circa 2,5 volte in più in 10 anni. Grazie allora per essere stato con noi. Grazie e buona giornata. Qual è il lago più grande d'Italia, signor Pizzacapo? È facile, lo dice anche il nome, non è vero, il lago più grande d'Italia. Lo dice anche il nome. Lo dice anche il nome. Dice... Lago Maggiore. Me lo immaginavo che ci cascava. Piccole cose crescono. con Marco Gambaro. Ben ritrovato Marco. Buongiorno a tutti. Ci laureiamo meno negli altri paesi europei. C'è anche una chiave economica per spiegare tutto questo? Beh sì, senza dubbio. È chiaro che le scelte di frequentare l'università sono determinate in qualche modo dalla domanda e l'offerta di servizi di istruzione. E la domanda riguarda, oltre alla qualità dell'esperienza, la speranza che questo sia un investimento che mi serve a fare lavori più qualificati, a guadagnare di più in futuro. E l'offerta è come sono organizzati i servizi, la qualità, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni, con le nuove generazioni, il tasso di educazione è cresciuto, perché se io conto solo i 25-34 anni, cioè quelli che sono andati a scuola pochi anni fa, il tasso dei laureati è del 28%, ma è molto più basso anche questo degli altri paesi, quindi meno laureati che negli altri paesi. La differenza statistica che salta più all'occhio è la minor peso delle lauree in discipline scientifiche e ingegneristiche e il maggior peso delle lauree in discipline umanistiche e in giurisprudenza. Il 29% dei nostri laureati si laurea in discipline artistiche e umanistiche. Probabilmente nel mercato del lavoro non c'è tutto questo bisogno. Del resto i nostri laureati non sempre trovano lavoro, abbastanza quanto sono le loro speranze. Potrei sottolineare alcuni fattori. Il primo è questo sfasamento fra la domanda e l'offerta di lavoro. Cioè, se noi ci laureiamo in discipline umanistiche e in giurisprudenza e l'industria cerca ingegneri, è chiaro che c'è un problema. L'altra differenza, la differenza con gli altri paesi europei è il sistema di università pubblica e privata, che da noi è diverso rispetto ad esempio al mondo anglosassone, dove prevale essenzialmente quella privata. Beh, da noi c'è un peso, come peraltro in quasi tutta Europa, c'è un peso molto forte delle università pubbliche che sono basate su un tradizionale meccanismo di finanziamento pubblico. Sono solo poche le università private e non tutte sono di maggiore qualità, mentre all'estero, voglio dire nel mondo americano soprattutto, le università leader sono fondazioni private sostanzialmente. Quindi da noi resta patrimonio pubblico, il che è però anche un effetto positivo. Vorrei sottolineare un'ultima cosa sulla questione dei costi. L'università è pagata sostanzialmente dai finanziamenti pubblici, il contributo degli studenti è molto basso. Se un anno di università costa più di 10.000 euro, gli studenti contribuiscono con 1.000-1.500 euro. Quindi, allora, il problema è qui, c'è un problema, diciamo, doppio. Da un lato, quanto spendo per la qualità, e questa è data dalla spesa per studente, dall'altro è come viene distribuita questa spesa. In un paese dove il tasso di laureati è così basso, perché se una cosa è percepita come gratis, posso frequentarla e non andare, impiegare più tempo, non valorizzarla, e in qualche modo anche la scelta diventa più casuale. Cioè, se io dovessi spendere i 10.000 euro che costa un anno di università, forse mi porrei più il problema di fare una scelta utile. Naturalmente io, è chiaro che se facessi pagare o tutto o gran parte di questa quota agli studenti, avrei il problema della distribuzione, cioè solo i più ricchi possono permetterselo, ma a questo potrei ovviare con sistemi di borse di studio più eque. Adesso le borse di studio sono poche, ma poche borse di studio va a braccetto con tasse basse all'università. Se io tasse basse faccio finta di regalarla a tutti, se le facessi pagare di più potrei finanziare un monte adeguato di borse di studio che andrebbero distribuite con giustizia. La terza via, dicevamo, che sta emergendo è il prestito d'onore. Cos'è? A pagare non è la famiglia, o non direttamente, ma è lo studente che chiede un finanziamento per pagarsi gli studi. Finanziamento che poi pagherà quando la sua laurea gli consentirà di trovare un lavoro. Ovviamente, siccome chi lo finanzia deve poter avere garanzie, durante il corso di esami sarà monitorato. Allora, saluto anche per andare nel concreto come fare Andrea Benassi, Icrea Banca. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto il nostro prestito d'onore si chiama Student Loan ed è un programma europeo. Noi contiamo di muovere intanto tutto il fondo che ci ha affidato BEI, che sono 46 milioni e mezzo, abbiamo ottenuto il fondo a novembre e assieme ad un'altra banca italiana, attivando immediatamente fondi per questi giovani universitari che delle 8 regioni del centro-sud che possono andare o nelle regioni del nord oppure all'estero per il 75% di questi fondi, oppure il 25% per ragazzi del nord che invece vogliono trasferirsi a studiare nelle 8 regioni di cui sopra. Cosa può ottenere un ragazzo o una ragazza, naturalmente? Sì, certo, assolutamente. È un prestito totalmente infruttifero, quindi senza spese, può ottenere fino a 50.000 euro, 10.000 euro l'anno, sono assolutamente senza costi e beneficiano anche di 30 mesi di preammortamento che scattano alla fine dell'ultimo esame. Quindi loro fanno il loro percorso di studi, hanno 30 mesi in cui non debbono rimborsare nulla e poi cominciano il rimborso dopo appunto 2 anni e mezzo e l'agevolazione può durare fino a 20 anni. E se il mio percorso va male cosa mi succede? Ma il percorso viene monitorato ovviamente da parte nostra, quindi insomma non dovrebbe andare male. Cioè bisogna restare però in corso comunque a posto con gli esami per continuare ad avere questi fondi. Si può pensare in questo modo, anche in questo modo, di ridurre il gap con gli altri paesi europei per numero di laureati? Mi spiego meglio, c'è anche un fattore economico che incide? Secondo noi assolutamente, noi però vorremmo anche collegare a questi strumenti l'obiettivo di colmare il gap di distanza della formazione dal mercato del lavoro, quindi l'accompagnamento non è solamente economico ma è in realtà un accompagnamento mirante a un percorso di formazione che sia più ravvicinato con la strategia, no? Quella di specializzazione intelligente nazionale, quindi noi lavoriamo su questi dati e facciamo in modo di accompagnare i ragazzi secondo questi i percorsi dove c'è più possibilità di maggiori possibilità di sbocchi. Chi volesse informarsi, chi volesse aderire, dove può trovare tutte le informazioni? Il progetto non è ancora partito ufficialmente, ci sarà un'informativa sia da parte nostra sia da parte del MIUR, che quindi non siamo nuovi a questi strumenti. E con questo per oggi abbiamo concluso, ma ci trovate qui anche sabato prossimo, l'economia delle piccole cose su Radio 24. Se volete riascoltare il podcast, www.radio24.it. Ancora un saluto da Anna Migliorati e grazie in regia a Valeria Bernardi.